Sissi Caffri fischiò, imitando i ragazzi sul campo da gioco del calcio, per far vedere che era da più degli altri. E poi gridò: Gerti, Gerti, noi andiamo, forza, si vede di quassù. Gerti ebbe un'idea, una delle piccole astuzie d'amore. Infilò una mano nel taschino e tirò fuori il batuffolo d'ovatta. E lo agitò in risposta, senza farsene accorgere da lui, si capisce, e poi lo rinfilò a posto. Mi domando se è troppo lontano per... Si alzò. Era l'addio? No. Doveva andare, ma si sarebbero incontrati di nuovo, là. E lei avrebbe sognato quell'incontro fino a quel momento, domani, quel suo sogno di ieri sera. Si drizzò del tutto. Le loro anime si incontrarono in un ultimo sguardo indugiante e gli occhi che le giunsero al fondo del cuore, pieni di uno strano luccichio, aleggiarono affascinati sul suo dolce volto, simile a un fiore. Accennò un pallido sorriso verso di lui, un dolce sorriso di perdono, un sorriso prossimo alle lacrime, e poi si separarono. Lentamente, senza guardarsi indietro, ella percorse la spiaggia disuguale, verso Sissi ed Eddie, verso Jackie e Tommy Caffrey, verso il piccolo Borman. Era più scuro ora, e c'erano sassi e pezzetti di legno sulla spiaggia, e alghe scivolose. Camminava con quella certa quieta dignità che le era propria, ma con cautela e molto lentamente, perché Gertie McDowell era... Scarpe strette? No, è zoppa. Oh! Mr. Bloom la osservava zoppicare. Povera figliola. Ecco perché è rimasta là in asso e le altre correvano via. Mi pareva bene che ci doveva essere qualcosa dal suo aspetto. Bellezza piantata in asso. Un difetto è 10 volte peggiore in una donna. Ma le rende gentili. Sono contento di non averlo saputo. Quando si metteva in mostra, però è sempre una ragazzina col diavolo in corpo. Non mi dispiacerebbe. Una curiosità, come una monaca, o una nigra, o una ragazza con gli occhiali. Quella strabica e delicata. Alla vigilia ad aver le sue cose, immagino, e questo le rende suscettibili. Ho un tale mal di testa oggi. Dove ho messo la lettera? Sì, benissimo. Ogni sorta di voglie pazze. Leccare monetine. La ragazza del convento. Tranquilla, mi disse la monaca. Le piaceva l'odore dell'olio di rocca. Le vergini finiscono pazze, credo. Sorella? Quante donne a Dublino ce l'hanno oggi? Marta, lei. Qualcosa nell'aria. È la luna. Ma allora perché tutte le donne non hanno i mestrui allo stesso tempo con la stessa luna, voglio dire? Dipende da quando sono nate, credo. Oppure partono tutte in tromba contemporaneamente e poi perdono il passo. Qualche volta Molly e Millie insieme. Comunque ne ho cavato quel che potevo. Fortuna che non l'ho fatto stamani nel bagno, con quella sciocca lettera ti punirò. Mi ha ripagato di quel tranviere di stamani. Quel rompitasche di McCoy che si ferma per dir sciocchezze. E la moglie con la tournée in provincia per la valigia. Voce che fa allegare i denti. Grato anche per poco. E poi a buon mercato. Basta domandare. Perché sono loro che lo vogliono. Bisogno naturale. Escono a stormi tutte le sere dagli uffici. Meglio essere riservati. Non ne vuoi sapere e te lo buttano dietro. Pigliali vivi, oh. Peccato che non possano vedersi come sono. Un sogno di calze ben riempite. Dov'era? Ah, sì. Le visioni al mutoscopio in Capel Street per uomini soli. Guardare dal buco della serratura. Il cappello di Willy e quel che le donne ne hanno fatto. Sono riprese dal vero quelle ragazze? O è tutto trucco? È effetto di lingerie. Cercava le curve nel suo déshabillé. Le eccita anche quando sono tutta pulitina. Vieni a sporcarmi. E se la godono a vestirsi a vicenda per il sacrificio. Millie andava pazza per la nuova camicetta di Molly. Alla prima, si mettono tutta quella roba addosso per il gusto di levarsela. Molly, Perciò le ho comprato quelle giarrettiere violette. E noi anche, la cravatta che aveva, quelle calze tanto carine e i pantaloni col risvolto. Portava un paio di ghette la sera che ci siamo incontrati. La sua bella camicia faceva faville sotto il suo, come si chiama, di giaietto. Dice che una perde un po' di fascino per ogni spillo che si leva, tenute su a forza di spilli. Mariuccia ha perduto lo spillo alle messa su in gingheri per qualcuno. La moda è parte del loro fascino. Cambia proprio quando sei sulla strada di scoprire il segreto. Eccetto in Oriente. Mary, Marta, ora come allora. Non si rifiuta nessuna offerta ragionevole e non aveva neppure fretta quando l'anno è per andare da un amico. Non dimenticano mai un appuntamento. Fuori all'avventura, probabilmente. Credono nella sorte, perché è come loro. E le altre? Pronte a punzecchiarla. Amichette di scuola, sempre con le braccia intorno al collo, con le mani intrecciate, a baciarsi, a sussurrarsi i segreti da nulla nel giardino del convento. Le monache con le facce imbiancate, la cuffia gelida e i rosari che van su e giù, e poi vendicative per quel che non possono avere. Filo spinato. Bada bene di scrivermi ora, e io ti scriverò. Vero che lo farai? Molly e Josie Powell. Finché non arriva l'uomo del sogno, allora ci si vede una volta ogni morte di papa. Tableau! Oh, guarda che si vede, per amor di Dio! E come va? Che ne è stato di te? Si baciano, è felice di, si baciano di vederti, a cercar difetti l'una nell'aspetto dell'altra. Hai un ottimo aspetto, anime gemelle! Si mostrano i denti. Quante te ne restano? Non alzerebbero un dito l'una per l'altra. Ah, son diavoli quando gli sta per arrivare. Aspetto cupo e diabolico. Molly mi diceva spesso di sentirsi addosso il peso di una tonnellata. Grattami la pianta del piede. Oh, così, così, oh, è meraviglioso. Mi par di sentirlo anch'io. È bene riposarsi una volta ogni tanto. Chissà se è male andar con loro in quelle circostanze. Sicurezza in un certo senso. Fa accagliare il latte, fa spezzare le corde del violino. Qualcosa che ho letto delle piante che ne appassiscono in un giardino. E poi dicono che se il fiore che porta addosso appassisce è una civetta. Tutte lo sono. Direi che si era accorta che io, quando ti senti così, finisci spesso per incontrare quello che senti. Le piacevo o che cosa? Guardano al vestito, sanno sempre quando qualcuno fa loro la corte, colletti e polsini. Beh, lo fanno i galli, i leoni e anche i cervi, però potrebbero preferire una cravatta sfatta o qualcosa del genere. Pantaloni? E se io quando ero? No, bisogna avere il tocco leggero. Non gli piace la maniera forte. Baciarsi al buio e non dirlo a nessuno. Ha visto qualcosa in me. Chissà cosa. Mi preferisce così come sono a qualche poetucolo coi capelli unti di pomata, il ricciolo tirabaci sull'oculare di dritta. Per collaborare al lavoro let, dovrei curare l'aspetto alla mia età. Non mi sono lasciato vedere di profilo da lei. Eppure, non si sa mai. Belle ragazze che sposano uomini brutti. La bella e la bestia. E poi non sono così, se molli. S'era levato il cappello per far vedere i capelli. Tesa larga. Comprato apposta per nascondersi il viso, se incontra qualcuno che la conosce. Chinar la testa. O portarsi un mazzolino di fiori da odorare. Capelli forti quando è in fregola. Ho avuto 10 scellini per i ritagli dei capelli di Molly quando eravamo in secco a Holles Street. Perché no? Supponiamo lui le abbia dato del denaro. Perché no? Tutto un pregiudizio. Vale 10, 15 scellini, anche una sterlina. Come? Lo credo. Tutto questo per niente. Calligrafia decisa. Mrs. Marion. Ho mica scordato di scrivere l'indirizzo su quella lettera come la cartolina che mandai a Flynn. E quel giorno che andai da Dreamy senza cravatta, quella scenata con Molly, che mi aveva messo fuori squadra. No, mi ricordo. Richie Goulding, un altro. Mi è rimasta sullo stomaco. Buffo! Mi si è fermato l'orologio alle 4:30. Polvere, olio di fegato di squalo adoperano per pulirlo. Potrei far da me, risparmio. È stato proprio quando lui. Lei. Oh, lui ha fatto. In lei. Lei ha fatto. Fatto. Ah. Mister Bloom con mano cauta rimise a posto la camicia bagnata. Dio, quel diavoletto zoppo! Comincia a diventar fredda e vischiosa, conseguenza spiacevole. Eppure bisogna liberarsene in qualche modo. A loro non importa, magari anche lusingate. Vanno a casina col pane e lattuccio e poi a dir le preghiere della sera coi marmocchi. Beh, non sono proprio. Vederla com'è guasta tutto. Ci deve essere la messa in scena, il rossetto, il costume, gli atteggiamenti, la musica, anche il nome. Amour di attrici. Nell Gwyn, Miss Bracegirdle, Maud Branscombe. Sul sipario. Gli argentei raggi della luna. Rivela una fanciulla col seno pensoso. Vieni, tesoruccio, a darmi un bacio. Sento ancora. Che forza che ti dà. È lì il segreto. Fortuna che mi son liberato là dietro, venendo via da Dignam. Sidro, ecco cos'era. Altrimenti non avrei potuto. Ti fa venir voglia di cantare dopo. La cosa è son, tara tara. Vediamo, se gli avessi parlato. Di che? Idea infelice però, se non si sa come finire la conversazione. Fai una domanda e loro te ne fanno un'altra. Buona idea se si è bloccati. Guadagnar tempo. Ma d'altronde sei nei pasticci. Meraviglioso, naturalmente, se tu dici buonasera e vedi che lei ci sta. Buonasera. Oh, ma quella sera buia sulla Via Appia, per poco non parlavo a Mrs. Clinch, oh, credendo che fosse la ragazza di Meath Street quella sera. Tutte le porcherie che le feci dire, tutte male le diceva. Il mio dieretano, diceva. È così difficile. Trovarne una che. Oh, se non rispondi quando ti si offrono, deve essere terribile per loro, finché non ci fanno il callo. E mi baciò la mano quando le detti due scellini in più. Pappagalli. Premi il bottone e l'uccello squittisce. Se non mi avessi chiamato signore. Oh, la sua bocca nell'oscurità. E tu, un uomo sposato, con una ragazza nubile. È questo che piace a loro. Rubar l'uomo a un'altra donna. O anche sentirlo raccontare. Per me è un'altra cosa. Felicissimo di liberarmi della moglie di un altro. Mangiare nel piatto dove ha mangiato lui. Quel tale, oggi, da Barton, che sputava nel piatto cartilagini masticate. Quel preservativo ancora nel portafoglio. Causa dei guai in gran parte. Ma può succedere una volta o l'altra, non credo mica. Venga, è tutto pronto. Ho sognato. Cosa? Il peggio sta nel cominciare. Come cambiano discorso quando la cosa non gli garba. Chiede se vi piacciono i funghi, perché una volta conoscevo un signore che. Oppure chiede cosa stava per dire qualcuno quando ha cambiato idea e si è fermato. Però se io andassi fino in fondo, dire ho voglia di. O qualcosa del genere. Perché ce l'avevo la voglia. Anche lei, offenderla, poi far la pace, far finta di morire dalla voglia di qualcosa, poi rinunciarci per amor suo. Si sentono lusingate. Deve aver pensato a qualche altro per tutto il tempo. Che male c'è? Da quando ha l'età della ragione, deve essere lui, lui e lui. Il primo bacio e il gioco è fatto. Il momento propizio, qualcosa dentro di loro si scatena, cedevoli. Si vede dall'occhio, sotto sotto. Le prime impressioni sono le migliori. Se ne ricordano fino al giorno della morte. Molly, il tenente Malvey, che la baciò sotto il muro moresco vicino ai giardini. 15, mi disse, ma il seno era già sviluppato. Poi si addormentò. Dopo il pranzo da Glencree fu quando si tornò a casa in carrozza. Il monte del letto di piume. Digrignava i denti nel sonno. Anche il sindaco le teneva gli occhi addosso, Val Dillon, apoplettico. Eccola laggiù, con con le altre a vedere i fuochi, i miei fuochi. Su come un razzo, giù come una stecca. E i bambini devono essere gemelli, aspettano che succeda qualcosa, vogliono essere grandi, si mettono i vestiti di mamma. C'è tempo a conoscere il viver del mondo. E la Bruna con quel casco di capelli e la bocca da negra. Lo dicevo io che sapeva fischiare. Bocca fatta apposta, come Molly. Perché quella puttana d'alto bordo da giamme t'aveva una veletta solo fino alla punta del naso? Le dispiace, scusi, dirmi che ore sono? Le dirò che ore sono in quel vicoletto buio. Dire prugne e prismi 40 volte tutte le mattine. E la cura per le labbra grosse. E poi accarezzava il piccino. Gli spettatori vedono tutto il gioco. Naturalmente capiscono gli uccelli, gli animali, i bambini, la loro partita. Non si è voltata a guardare nel ridiscendere la spiaggia. Non voleva dare la soddisfazione. Le belle, quelle belle ragazze in riva al mare. Begli occhi che aveva, limpidi. È il bianco dell'occhio a dare risalto, non la pupilla. Sapeva quel che io, sì, capì. Come il gatto che sta dove il cane non può arrivare. Le donne non lo trovano tutti i giorni. Uno come quel Wilkins alla scuola media, che aveva disegnato una Venere con tutti gli ammennicoli di lui in mostra. E la chiamano Innocenza? Povero idiota. La moglie ha il lavoro tagliato su misura per lei. Non le vedi mai sedersi su una panchina con l'avviso vernice fresca. Hanno occhi dappertutto, guardare sotto il letto in cerca di quello che non c'è. Sperano di avere un bello spavento. Acute come spilli sono. Quando dissi a Molly che l'uomo all'angolo di Cuffy Street era un bel ragazzo, pensavo le piacesse, fiutò subito che aveva un braccio finto. E ce l'aveva. Ma come fanno? La dattilografa che saliva a due scalini alla volta le scale di Roger Green per far vedere quel che poteva. Tramandato di padre in... no, di madre in figlia, voglio dire. Ce l'hanno nel sangue. Millie, per esempio, che faceva asciugare il fazzoletto sullo specchio per risparmiare la stiratura. Il posto migliore per un annuncio che debba attirare lo sguardo di una donna, uno specchio. E quando la mandai a ritirare da Prescott quello scialle Paisley di Molly. A proposito, c'è quell'annuncio che riportò il resto nella calza, piccola volpe. Non gliel'avevo mica detto io. E porta così bene i pacchetti anche. Attira gli uomini, piccola com'è. Alzava la mano, la scuoteva per lasciar rifluire il sangue quando era rossa. Da chi l'hai imparato? Da nessuno. Una cosa che mi ha insegnato la balia. Oh, lo sanno e come. A 3 anni era davanti al tavolino da toilette di Molly, subito prima che lasciassimo Lombard Street West. Ho un bel bisino. Mullingar, chissà, così va il mondo. Studentello. Comunque non ha le gambe torte come quell'altra. Ma non era da buttar via. Dio, son bagnato. Diavolo che sei. La curva di quel polpaccio. Calze trasparenti, tese fino a rompersi. Non come quella befana ridicola di oggi. E calze raggrinzate. Oh, quella di Grafton Street, bianche. Bah, polpacci grossi. Un razzo girandola scoppiò in aria, sputacchiando i suoi petardi dardeggianti. Zraz, zraz, zraz, zraz. E Sissi e Tommy e Jackie, via di corsa a vedere. Ed è di dietro con la carrozzina, e poi Gertie, oltre la curva delle rocce. Sta per... Guarda, guarda! Attento, s'è voltata. Ha mangiato la foglia. Cara, ti ho visto là. Ho visto tutto. Dio, però mi ha fatto bene. Un po' fuori squadra dopo Kiernan, Dignam. Per questo sollievo siano grazie a te. È nell'Amleto. Dio, sono state tutte quelle cose combinate insieme. Eccitazione. Quando si è chinata all'indietro ho sentito una fitta alla radice della lingua. La testa te la fan proprio girare. Ha ragione. Però avrei potuto far peggior figura. invece di parlare di niente. Allora ti dirò tutto. Però era una specie di linguaggio tra noi due. Non potrebbe essere. No, la chiamavano Gerti. Potrebbe essere un nome falso, però, come il mio. E l'indirizzo Dolphin's Barn è uno schermo. E il suo nome di ragazza era Gemina Brown. E stava con sua madre a Irish Town. È il posto che mi ci ha fatto pensare, credo. Tutte tinte della stessa pece. Puliscono le penne sulle calze. Ma la palla è rotolata fino a lei, come se capisse. Ogni palla ha il suo bersaglio. È vero che quando ero a scuola non riuscivo a fare nessun tiro diritto. Sempre torto come un corno di becco. Triste, però, che duri solo pochi anni. Finché non si sistemano a lavare le pentole. E i pantaloni di papà fra poco andranno bene a Willy. E il silicato d'alluminio per il pupo, quando gli fanno fare ca, ca. Non è un lavoro leggero. Le salva. Le tien lontane dal male. Natura. Lavar bambini. Lavar cadaveri. Digne. Mani di bimbo sempre attaccate a loro. Crani come noci di cocco. Scimmiotti, non sono neanche chiusi al principio. Latte acido tra le fasce e caglio andato a male. Non avrebbe dovuto dare a quel bambino una tettarella vuota da succhiare. Riempie d'aria. Mrs. Beaufoy, Purefoy. Devo fare una capatina all'ospedale. Chissà se c'è ancora l'infermiera Callan. Veniva certe sere, quando Molly era alla casa del caffè. Quel dottorino era. L'ho vista spazzolargli il soprabito. E Mrs. Brin e Mrs. Dignam, anche loro, così un tempo, ragazze da marito. Peggio di tutto la notte, mi disse Mrs. Dagan al City Arms. Marito che piombava dentro ubriaco, puzzando d'osteria come un caprone. Averlo sotto il naso al buio, puzzo di spirito acido. E la mattina a chiedere: ero ubriaco ieri sera? Comunque una politica sbagliata, quella di trovare le colpe del marito. I galletti tornano sempre al pollaio, stanno l'uno accanto all'altra, come se fossero incollati. Forse anche un po' colpa delle donne. È qui che Molly dà dei punti a tutte. È il sangue del sud, moresco. Anche la forma, la linea. Mani cercavano le opulente. Fa un po' il paragone con quelle altre. Moglie è chiusa in casa. Segreto di famiglia. Mi permetta di presentare la mia. Ed ecco che ti tirano fuori qualcosa di indefinito. Non sai come chiamarla. Si vede sempre il punto debole di qualcuno nella moglie. Ma anche lì è destino, nell'innamorarsi. Hanno segreti tra di loro. Tipi che andrebbero a pezzi se una donna non prendesse le redini. Poi delle ragazzinette, alte 2 soldi di cacio, con i loro maritini. Dio li fa e poi li accoppia. Qualche volta riescono bene i figli. 2 volte 0 fa 1. Ho il settantenne ricco e la sposina tutta rossa. Sposarsi a maggio e pentirsi a dicembre. Questo bagnato è spiacevolissimo, appiccicato. Oh, il prepuzio non è tornato a posto. Meglio staccare. Oh.